ti contesto, sono sempre solo gusti. Ma anche a me tu non piaci, no fra tu non mi gusti. Io il fatto e me ne foto e vivo la vita che vivo. E mi esprimo, ti deprimo di nuovo. Se reggi vivo, la mia passa a livello di verme del sottoterra. Del sottoterra, stronzo, questa è questa. Si combatte ogni giorno con la realtà che mi trovo intorno, provo a scegliere. Eccomi qua, sono di nuovo a contraddire a te che sei una merda per me. Puoi morire, non esisti più per me adesso, storia passata, passata nel passato, perché ormai l'ho scordata. A te, solo per te, da me tanto odio, fanculo questa vita, voi bastardi, tanto odio. Tempo al tempo e vendetta sarà fatta, non guardo in faccia a nessuno, fatta la disfatta. Ecco perché sono bastardo e vi tratto come cani. Parlate, parlate, parlate perché siete solo infami. E me ne fotto di quello che voi dite su di me. La rabbia scorre nel sangue di quest'uomo ancora giovane. Combatto ogni giorno con la realtà che mi trovo intorno, provo a scegliere tra bene e male, non so distinguere, provo a decidere, ma mi è difficile. Combatto ogni giorno con la realtà che mi trovo intorno, provo a scegliere tra bene e male, non so distinguere, provo a decidere, ma mi è difficile.